Un buongiorno Paolo Billi, grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi. Allora, siamo qui per presentare uno spettacolo teatrale molto particolare. Ci puoi raccontare perché? Allora, il 4 luglio, lunedì, in quattro chiese diverse di Bologna si svolgerà uno spettacolo a stazioni, quattro tappe. Comincia in San Francesco per andare in Santo Stefano, da Santo Stefano in San Gaetano e Bartolomeo sotto le due torri per giungere infine in Santa Maria della Vita dove si conclude lo spettacolo. È uno spettacolo che è realizzato con la partecipazione di tutte quelle realtà che in tutti questi anni con cui ho lavorato. I ragazzi del penale dell'IPM di Bologna, i ragazzi dell'area penale esterna, le donne della Dozza, della sezione femminile della casa circondariale e un gruppo di cittadini. Quindi per me è l'occasione di far lavorare tutti insieme in un progetto dedicato al tema del perdono e partendo dalla parabola del figlio al prodigo, leggendola in maniera particolare. Com'è stato lavorare, collaborare con tutte queste persone messe insieme per la prima volta? Beh, è tutto un lavoro di mosaico, è stato un grande mosaico perché la preparazione è stata avviata su quattro fronti diversi e in questa settimana si stanno componendo, si stanno facendo le prove tutti insieme per andare a costruire lo spettacolo finale, quindi è un lavoro, come dire, complesso che ha messo in interazione mondi molto diversi, ma è quello che poi mi interessa fondamentalmente. Certo, fa il teatro anche. Certo. E com'è possibile partecipare invece? Cioè, anche il pubblico si sposterà da una chiesa all'altra? Sì, il pubblico si sposta da una chiesa all'altra perché lo spettacolo è a tappe. Certo. E quindi dopo la prima stazione si passa in Santo Stefano e in ogni chiesa trova una piccola compagnia che propone lo spettacolo. Esiste una premessa, questo lavoro l'ho realizzato l'anno scorso in quel di Pontremoli dove c'è l'istituto penale minorile e femminile, è stato realizzato in quattro chiese della cittadina toscana. E in autunno mi sono ritrovato a parlare con i cardinali tutti di questo lavoro fatto e da lì è nata. Perché non farlo a Bologna? Perché non farlo a Bologna? In realtà è stata una grande impresa, si è cominciato in questo modo e il lavoro dietro non è stato, come dire, semplice, anche perché la prima cosa fondamentale è stata quella per realizzare tutto questo, perché non coinvolgere tutte le realtà di teatro carcere, maggiorenni e minorenni, nelle quali io da tanti anni mi sto, come dire, cimentando. E veramente questo per noi è un progetto speciale per tutti noi, ma perché sono accadute delle cose che in 20 anni di teatro che faccio con i minori non erano mai successe, ad esempio. Per la prima volta escono quattro ragazzi dell'istituto penale minorile, tutti insieme fuori per realizzare il primo atto. È da 20 anni, 23 anni che lavoro dentro all'IPM, non era mai successo. Quest'anno è accaduto, chiaramente grazie al direttore Alfonso Paggiarino, ma come dire, di tutta, è stata espressione di tutti i servizi della giustizia il fatto di sostenere in maniera fortemente convinta tutto questo. Lo stesso dicasi per il gruppetto dei ragazzi dell'area penale esterna. Poi l'altro elemento fondamentale è che dalla Dozza escono tre detenute. Dopo 10 anni in cui non sono mai riuscito a portare fuori dalla Dozza, accaddero dei fatti anni fa spiacevoli, in tutti i modi non era più successo. E qui devo ringraziare la nuova direttrice, la dottoressa Casella, che nel momento in cui le ho fatto presente questa possibilità, mi ha detto, certo, proviamo. Ecco, quindi grazie al concorso di tante forze diverse sono riuscito a comporre questa impresa che chiaramente avviene un giorno solo, si è scelto il 4 di luglio e dà la possibilità a due gruppi di cittadini bolognesi di poter partecipare a questo evento.